Giovedì 20 febbraio del 2014, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno di voi può contribuire a farla vivere, ad esempio con la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio, che è ondarossa.info. La voce sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Diamo inizio all'appuntamento con il cinema Visionari il giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata. Le uscite in sala di oggi giovedì 20 febbraio, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare sia la puntata precedente che tutte quelle del 2014 ma anche del 2013. E per quanto riguarda Facebook, anche lì c'è la pagina di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Monica Zappelli, sceneggiatrice della serie TV Non è mai troppo tardi, che andrà in onda su Rai 1 il 24 e 25 febbraio prossimi, cioè lunedì e martedì. Monica, ci sei? Buongiorno, sì, ci sono. Ecco, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, non è mai troppo tardi, mi interessava molto l'argomento. Intanto facciamo un passo indietro, da dove parte quest'idea? Quest'idea parte dal tentativo di raccontare una figura anomala, anomalo diciamo come italiano, ma anomalo anche come personaggio televisivo. Perché la cosa straordinaria del maestro Manzi, che è stata oltre a essere stato uno studioso molto serio, è stato un irregolare, un trasgressivo e un disubbidiente, e nonostante questi tre aspetti è riuscito a costruire una trasmissione di enorme popolarità e di enorme successo. Per cui ci ha insegnato in questo senso anche questo insegnamento. Forse proprio per questi suoi aspetti è riuscito a fare questo. Sì, però che è il contrario di quello che noi in genere facciamo quando cerchiamo di inseguire il gusto degli altri. Sì, sì. La strada distintiva è quella dell'omologazione, mentre questa storia in Italia molto lontana ci insegna che invece si può anche essere popolari, avere un enorme seguito, un enorme successo con un prodotto televisivo, facendo qualcosa di completamente diverso da quello che ci si aspettava. Allora, tutto questo quando avveniva? Ecco, ripercorriamo anche le tappe storiche di questa vicenda. Guardi, la trasmissione televisiva comincia il 15 novembre del 60 e si conclude nel 68. Sì. Per cui prende un arco storico molto chiaro, cioè quello di un paese che sta diventando un paese industriale, quindi ha bisogno di essere alfabetizzato, perché un contadino può non saper leggere, un operaio deve saper leggere, e finisce col 68, cioè di un'Italia che con molti lividi comunque ha cambiato pelle, e a quel punto non è più lo stesso paese, non ha più bisogno del maestro Manzi, o comunque di quel tipo, perché di maestri Manzi poi nelle scuole elementari italiane ci sarebbe molto bisogno anche oggi, però sì, diciamo sì, di quel tipo di programma televisivo. Ecco, subito dopo il boom economico, ossia la fine degli anni 50, qual era la condizione del paese a livello di alfabetizzazione? Guardi, la condizione era bassissima, perché c'era un altissimo numero di analfabeti, erano più di 2 milioni, e quindi non era in grado proprio culturalmente il nostro paese di entrare in una fase di modernizzazione e di industrializzazione. La cosa drammatica è che noi oggi abbiamo in una maniera meno eclatante dei problemi analoghi. Noi in Italia siamo a livello di analfabetismo funzionale, secondo un'indagine OCSE, il 24esimo paese su 24 paesi analizzati. E l'analfabetismo funzionale, diciamo, è il nostro analfabetismo contemporaneo, cioè quello che testa una volta che uno legge un testo, cioè la capacità di leggerlo, poi quanto l'ha capito e quanto è in grado di restituirlo, ad esempio. come siamo su 32 paesi di area OCSE per investimento scolastico al 31esimo posto. Quindi diciamo in un modo molto apparentemente molto più visibile, perché l'analfabetismo è un dato ovviamente molto più leggibile dell'analfabetismo funzionale, l'Italia purtroppo in oltre 40 anni non ha fatto moltissima strada. Un pezzo di strada importante gliela fa fare Manzi, perché grazie alla sua trasmissione moltissimi italiani imparano a leggere e scrivere. È molto complicato avere delle stime concrete, però si dice 1 milione di persone, 1,5 milioni nell'arco ovviamente degli 8 anni. Sì. Ecco, la televisione pubblica in quel periodo svolse anche un'importante funzione per quella che è appunto l'utilizzo della lingua italiana, quindi il superamento della realtà dialettale e quindi dei localismi, e quindi il suo scopo, il suo ruolo di Manzi è stato allora a maggior ragione importante in quell'epoca. Certo, lui è stato una serie del servizio pubblico, cioè di una televisione che veramente interpreta i bisogni di un paese e ha nello stesso tempo la capacità di risolverli, anche di una televisione che è in grado di chiamare l'eccellenza, perché Manzi non era solo un maestro, aveva una formazione pedagogica di primo ordine, era laureato, rinuncia a una carriera universitaria perché lui ama fare il maestro, ma se avesse avuto altre ambizioni c'era per lui pronto un posto di assistente alla facoltà di pedagogia di Roma. E quindi attraverso la scelta dell'eccellenza e ripeto dell'indipendenza didattica, la RAI riesce a compiere un piccolo miracolo. Non è mai troppo tardi, con il linguaggio di oggi diremmo un format, cioè un programma televisivo che viene venduto in 72 paesi. Non credo che noi abbiamo avuto altri programmi televisivi che siano stati acquistati da più di 70 paesi nel mondo. Che spazio aveva di palinsesto? Che cadenza? Quotidiana con una fascia oraria serale, perché le persone che rincasavano dal lavoro dovevano poterlo guardare, per cui diciamo l'orario era basato sui ritmi di lavoro dell'Italia di allora. La trasmissione era strutturata anche con una serie di punti di ascolto, per cui si assisteva nei circoli, nelle parrocchie oppure nelle case private, anche se nel 60 il televisore non era ancora in tutte le famiglie. Oh, un'altra cosa, ecco, rispetto al stavi parlando anche del giorno d'oggi, penso per esempio all'analfabetismo di ritorno, ma anche al ruolo, alla doppia faccia dell'epoca del digitale, anche il rovescio della medaglia, quindi una poca propensione alla lettura, ai libri, e in questo senso è anche uno svantaggio. Oggi poca propensione ai libri, però noi dobbiamo anche interrogarci su che cosa è diventata la scuola italiana. Sì. Perché se noi su 32 paesi siamo al 31esimo posto, certo, certo, nell'investimento scolastico, una domanda ce la dobbiamo porre. Noi abbiamo cercato, chi vedrà, vorrà seguire la miniserie e lo vedrà, di raccontare sì l'esperienza televisiva, perché è fondamentale per molti motivi, ma abbiamo raccontato anche il Manzi maestro, perché noi crediamo che oggi l'Italia abbia bisogno da un lato forse di riflettere su quello che può essere la televisione, ma di riflettere anche su quello che può essere la scuola. Sì. Perché ce lo siamo dimenticati. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti che taglio avete dato a partire dalla sceneggiatura a questa storia, a questa vicenda. Noi abbiamo scelto, rispetto a quello che è il di solito ritmo di racconto tradizionale delle miniserie biografiche, un taglio leggermente diverso, nel senso che noi non seguiamo cronologicamente tutta la vita del maestro. Sì. Noi prendiamo due momenti, il 1946, che è l'anno in cui lui ventenne inizia a insegnare, e lo fa in una scuola molto particolare, perché è il carcere minorile di Roma, la Risti De Gabelli, dove lui si trova 92 alunni che vanno dai 9 ai 18 anni, e alcuni sono analfabeti, alcuni sono addirittura anche due allievi del liceo classico, per cui la classe peggiore che possa capitare, con il divieto di usare libri, quaderni, senza banchi e senza lavagne. E ciò nonostante lui fa un'opera di recupero così profonda di questi ragazzi che su 92 solo due ritorneranno in carcere. Poi scegliamo il 1960 e nel racconto, che è l'anno in cui 60-61, diciamo l'anno scolastico 60-61, che è l'anno in cui l'esperienza del maestro Manzi incontra la televisione, e raccontiamo, alterniamo il racconto dell'esperienza televisiva con la sua esperienza di maestro, proprio perché ci interessava, anche perché Manzi era innanzitutto un maestro e non si può capire il modo in cui lui arriva alla televisione, il modo in cui lui rivoluziona quel tipo di trasmissione, perché prima di lui c'erano già stati dei tentativi di alfabetizzare gli italiani con la televisione ed erano falliti, se non si capisce come lavora lui come maestro. E poi, siccome la RAI è ancora servizio pubblico, ci tenevamo anche a raccontare agli italiani cosa può essere la scuola e cosa può essere un maestro e quali luci può accendere nelle vite dei bambini. Senti, tutto questo, la relazione con le scelte registiche invece com'è stata? Ma noi ottima, nel senso che abbiamo scritto insieme a Campiotti anche nella fase finale i copioni, per cui c'è stato un lavoro, diciamo, totalmente condiviso, per cui addirittura, anzi, è complicato, come spesso capita quando le cose riescono bene o comunque con soddisfazione di tutti, distinguere i contributi di ciascuno, per cui sì. Ottime, e abbiamo condiviso anche le scelte degli attori, che sono molto giuste. Bene, allora ricordiamolo, non è mai troppo tardi, Rai 1, 24 e 25 febbraio, l'orario della messa in onda? L'orario della messa in onda è 21:10. Quindi prima sera. Di Rai 1. Bene, Monica, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, arrivederci, grazie. Monica Zappelli, sceneggiatrice della serie TV Non è mai troppo tardi. È con noi Martina Feliciotti, regista del documentario L'Elefante Bianco, co-regista, anzi, Martina. Ci sei? Sì, ci sono. Oh. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di avermi invitato, così è stata una sorpresa. Sì, avevo avuto modo di vedere il tuo documentario all'interno del Clorofilla Film Festival quest'estate, e allora raccontiamolo anche a chi ci ascolta. Di cosa si parla? Allora, il titolo è L'Elefante Bianco ed è un documentario che è stato girato in Brasile, nel bacino idrografico del San Francisco, che è il terzo fiume brasiliano. Un fiume che ha già subito delle grandi opere, cioè ha 7 idroelettriche, e che sulle cui sponde vivono numerose comunità tradizionali, popoli indigeni, comunità afrodiscendenti, che subiscono fortissimi impatti di queste opere. Ma in particolare il documentario accentra la sua attenzione su una ulteriore faraonica opera che il governo brasiliano sta mettendo in atto, ed è proprio un progetto di deviazione del corso del fiume, e quindi questa cosa preoccupa molto le comunità. E io ho lavorato con le comunità indigene di quella regione, e quindi insieme ad altri ragazzi abbiamo deciso di cercare di sentire la loro voce, quindi di documentare un po' quali sono i problemi per la gente del posto, perché il governo ovviamente non li ascolta, non ha mai fatto nessuna consultazione delle comunità impattate. Martina, come eri venuta a conoscenza di questa storia? Dunque, io sono partita col Servizio Civile Internazionale in sì. Brasile. Volevo lavorare col movimento indigeno, e il progetto per cui lavoravo era proprio riguarda questa questione, la protezione del fiume, un progetto dedicato all'acqua, perché sappiamo che l'acqua, insomma, è un bene comune che in questo caso, diciamo, specifico riguarda il Brasile, ma riguarda tutti noi. Certo. Cosa c'è dietro questa imponente opera che sta mettendo in campo il governo brasiliano? Ci sono gli interessi di grandi corporation, cioè ci sono gli interessi innanzitutto di tutte le imprese dell'edilizia, ma anche gli interessi di corporazioni che sono interessate a quello che diventerebbe di fatto il più grande mercato d'acqua in questo momento in Brasile, perché la propaganda del governo sostanzialmente presenta il progetto di deviazione del fiume come la risoluzione al problema della siccità del nord-est brasiliano, e quindi dice che soddisferà la sete di 12 milioni di persone disperse in una regione molto ampia, appunto dal carattere semiarido. Mm-hmm. In realtà sappiamo che secondo lo stesso testo del progetto del governo il 70% di queste acque sarà destinata ad un uso industriale, in particolare al porto in costruzione, al porto industriale di Pecém, che prevede l'installazione di siderurgiche, acciaierie, industrie che hanno bisogno di un'enorme quantità d'acqua proprio anche per gli apparati di raffreddamento, no? Per il sistema di raffreddamento dei macchinari. Sì. E poi il Brasile sta cercando, come la Cina, di aumentare le proprie esportazioni a livello mondiale, e quindi sono già stati svenduti e lottizzati grandissimi territori che praticamente costeggiano il percorso dei canali, e per la produzione soprattutto di frutta da esportazione. Sì, sì. Ma anche poi di monoculture come la soia, quelli che vengono definiti agrocombustibili, non falsamente nominati biocombustibili, ma in realtà insomma sono delle monoculture molto invasive, ecco. Sì. Martina, dicevi che si tratta del terzo fiume per importanza e portata del Brasile. Volevo chiederti, questa opera, che fetta di, che dimensioni di territorio investe e quanta popolazione ne è coinvolta? Sì, allora, è una maxi opera gestita dal Ministero dell'Integrazione Nazionale, perché coinvolge appunto 5 stati della Federazione Brasiliana. Sì. Un territorio enorme, cioè se lo dovessi quantificare sarebbe veramente, non so, 20, 30, 40 volte quello dell'Italia. Sì. La popolazione che ha, diciamo appunto, 12 milioni di persone sono quelle che il governo dice che a cui andrà il beneficio del progetto. Noi abbiamo rilevato un impatto negativo in realtà su ben 33 popoli indigeni e alcune centinaia di comunità di pescatori e comunità afrodiscendenti. Mm. Si parla comunque di centinaia di migliaia di persone che subiranno un impatto diretto negativo dovuto al calo della portata del fiume, quindi alla mortalità dei pesci, ma anche proprio alla rottura di tutto un equilibrio ambientale che porta alla salinizzazione dei terreni in un bioma che è particolarmente delicato, perché sappiamo che tutte le regioni semiaride attualmente nel pianeta sono a rischio di desertificazione, quindi costruire una grande opera in territori così fragili rischia di essere veramente un fallimento. Mm-mm. Non solo dal punto di vista economico, ma ambientale e umano, insomma. Diciamo che è proprio una visione di sviluppo ancora molto arretrata, molto, sì, arretrata. Sì, sì. Infatti il progetto, pensa un po', è stato ideato nel 1800 ancora sotto l'imperatore, e poi portato avanti dalla dittatura militare, infine accantonato, e guarda un po', è stato resuscitato da un governo socialdemocratico come quello di Lula. Sì. Ecco, a proposito del resuscitaggio, chiamiamolo così, a che punto sono i lavori e in questo senso come si è auto-organizzata la popolazione? per contrastarli? Sì, attualmente secondo i dati del Ministero i lavori sono, si aggirano intorno al 40%, anche se diciamo ci sono moltissime difficoltà nella realizzazione dell'opera dal punto di vista materiale ed economico, diciamo i costi continuano a lievitare e questo risveglia anche l'opposizione della società civile. Le popolazioni che sono impattate sono anni che lottano attraverso mobilitazioni, movimenti sociali, pressione sugli organi del governo, chiusura di strade, blocchi di strade, occupazione dei cantieri. In particolare due popoli indigeni che io conoscevo, su cui lavoravo, hanno fatto un'occupazione che dura tuttora al lato dell'area dei cantieri, in una zona che è stata fortemente militarizzata, e cercano di resistere protestando, occupando fisicamente i territori. E si sono mossi avvocati, ci sono tantissime come si dice, azioni giuridiche, sì, contro il Ministero dell'Integrazione Nazionale, anche perché gli studi di impatto ambientale non sono stati realizzati secondo la normativa vigente, hanno profonde lacune. Però sappiamo che, come anche qui in Italia, il sistema giuridico è una macchina molto lenta e spesso i processi che sono scomodi vengono messi in fondo nei cassetti. Certo, tutto chiaro, insomma. Martina, per saperne di più sul vostro documentario, ricordo L'Elefante Bianco, in rete dove si può cercare? Lo potrete trovare in YouTube, l'abbiamo caricato. Ah, benissimo. Sì, sì. E poi è stato pubblicato anche da alcuni siti brasiliani, però per noi è più facile, insomma, così. Bene, e avete anche un vostro sito internet di riferimento? No, attualmente no, diciamo, come videomaker no. Ci sono dei siti internet che riguardano la questione, che sono quelli delle organizzazioni indigene brasiliane. Ecco, posso ricordare questo di interessante. Il caso è all'interno dell'archivio del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, CDCA, che ha sede lì a Roma, in collaborazione con la ONG a Sud. E quindi lì ci sono dei dati aggiornati sull'andamento della situazione. Io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie mille anche a te. Ciao Martina, ciao. Ciao. Martina Feliciotti, co-regista del documentario L'Elefante Bianco. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Maite Daneris, regista del documentario Il Lugar de las Fresas. Maite, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Un documentario che è stato presentato a Torino con un grande successo, visto che poi, dopo la fine del festival, ne sono state organizzate altre due proiezioni lì a Torino, giusto? Sì, è stata una serata organizzata nello stesso cinema, nel cinema Massimo, e sono molto contenta perché sono arrivati circa 900 persone a vedere il film in una unica serata. È stata una serata organizzata da me per poter far vedere il documentario ancora una volta, perché nel Torino Film Festival è stato molto successo, cioè sono state tre proiezioni esaurite, e da novembre che ricevevo un sacco di mail perché la gente voleva sapere dove si poteva vedere di nuovo il film. Maite, qual è l'argomento del documentario? Raccontaci un po'. Sì, allora l'argomento è questa storia, è un film documentario, sì, che è molto legato alla mia storia con Italia, perché io sono di Madrid, sono spagnola, e praticamente il film è collegato alla storia mia con Torino, perché io sono arrivata a Torino per una settimana e sono rimasta 7 anni per poter raccontare la storia del film. La storia del film racconta l'incontro con, in primo luogo, con una contadina del mercato di Porta Palazzo, che è un mercato, un grande mercato a Torino, che è uno dei più grandi mercati all'aperto d'Europa. Incontro questa contadina nel 2006 e inizio a seguire la storia del lavoro di lei, senza sapere bene dove andava a finire la storia. Poi, 3 anni dopo, arriva al mercato un ragazzo marocchino alla ricerca di lavoro, e quindi praticamente il film racconta tutta la trasformazione della storia, i nostri incontri e il loro rapporto, anche il mio rapporto con loro. Ecco. Come mai hai deciso di farne un documentario di queste due storie di vita? Io già facevo documentari a Madrid, okay. L'Accademia delle Belle Arti, quindi quando io sono arrivata qua una settimana a Torino per un viaggio e ho conosciuto il mercato, sono rimasta molto affascinata del luogo, quindi ho iniziato a fare dei piccoli cortometraggi e delle piccole riprese, cioè delle riprese che andavano a finire dei piccoli miei lavori di poca durata. Però quando ho conosciuto questa signora, questo personaggio, e ho iniziato a seguirla senza sapere bene che cosa avrei fatto. Invece poi si è allungato sempre di più, poi ho iniziato a chiedere i finanziamenti per poter fare una cosa un po' più lunga, poi è arrivato Hassan, ragazzo marocchino, e quindi mi sembrava molto interessante aspettare il corso naturale delle loro storie. Quindi alla fine il film è diventato un film di 90 minuti. Maite, che caratteristiche hanno queste due vite? La vita di questa donna contadina e di questo migrante? Sì, diciamo che loro rappresentano due mondi. Che può essere, in realtà, lei è piemontese, però potrebbe essere perfettamente la mia nonna di Madrid o qualsiasi contadina nel mondo. Quindi lei rappresenta il mondo contadino, però il mondo contadino piemontese, quindi un po' più particolare ancora, un mondo un po' più chiuso, più legato solo al lavoro. Quindi lei definisce la sua vita come chiesa, casa, lavoro. Poi lui è un ragazzo marocchino musulmano che alla ricerca del lavoro viene in Italia senza i documenti, quindi rappresenta tutta la parte dell'immigrazione. Diciamo che sono due mondi che si incontrano, il mondo povero del passato col mondo povero del presente, per dirlo così. Sì. E io sono un po' il filo che racconta tutta la storia, perché io sono la voce narrante in spagnolo nel film, e quindi nel film è narrato da me come se fosse una favola raccontata al pubblico in spagnolo. Poi il film è tutto parlato in italiano, però ci sono 2 o 3 scene dove si parla sia in piemontese sia in arabo. Questo è un po' detto velocemente. Sì. Ecco, volevo chiederti anche quali sono le caratteristiche di questo mercato all'aperto, che è uno dei più, come dicevi tu, uno dei più grandi d'Europa, e nel corso di questi anni di cui tu hai dato testimonianza, come si sta trasformando? Sì, allora lei viene, diciamo che il mercato di Porta Palazzo ha circa 1000 banchi che si smontano e si montano tutti i giorni, dove ci sono diverse aree nel mercato, l'area dell'ortofrutta, l'area della coperta della carne, del pesce, e poi c'è l'area dei contadini, che è dove c'è il banco questa signora Lina, la protagonista del mio film, che sono circa un centinaio di contadini che vengono tutti i giorni dalla campagna intorno a Torino a vendere i prodotti freschi raccolti del pomeriggio prima. Quindi è una cosa molto particolare. Io sono rimasta molto colpita, perché nel mio paese, in Spagna, che è anche un paese con una tradizione mercataria molto forte come tutto il Mediterraneo, tanti mercati sono spariti e scomparsi negli anni. Quindi che ci sia un mercato a Torino, tra l'altro Torino ha 52 mercati tutti i giorni nelle piazze all'aperto, però questo qua è molto particolare perché è molto grande, 1000 banchi tutti i giorni che si smontano dal lunedì al sabato, e il sabato tutto il giorno fino alle 7:30 di sera. Per me era una cosa speciale vedere un luogo che si trasformava e che un po' rimane, cioè resiste un po' al cambiamento, no, globale. Sì, sì, quindi sì. Per me era un luogo che non, in Spagna non vediamo già così, invece in Italia siete ancora resistete a questa, cioè ci sono tantissimi mercati all'aperto, e Torino è una città molto particolare in questo senso. E poi in particolare a Torino c'è una forte presenza migrante. Sì, sì, questo è lo secondo che volevo raccontare, che giusto in questo mercato diciamo che è il fuoco di incontro di un sacco di tantissime culture, sia dell'Africa, cinesi, cioè è un incontro, diciamo il luogo di Torino dove il maggior numero di migranti ci sono concentrati, sì, sì. Quindi io sono arrivata qua e anche il mercato mi ricordava molto anche la Spagna, quindi era il posto dove mi sentivo un po' meno straniera e da lì è partito il mio racconto del film. Poi mi sembrava molto interessante mettere insieme, è una storia vera, quindi non, cioè, è successo proprio così, e questo lo chiarisco perché alcuni dicono ma è una finzione, no, no, è una storia vera, è una storia di una contadina piemontese molto cattolica che a casa sua accoglie questo ragazzo musulmano per dargli lavoro, quindi è l'incontro tra queste due culture, queste certo. due religioni, e tre paesi, perché alla fine Italia e Marocco, anche la Spagna, che si incontrano e raccontano un pezzo di vita. Questo sarebbe il mio film, si chiama Il lugar de las fresas, perché lei viene, che sarebbe il titolo, del luogo delle fragole, tradotto in italiano, perché lei viene del luogo delle fragole, che è il paese dove viene lei, è una zona molto famosa, conosciuta per la produzione di fragole. Quindi ha un significato nel film, sia certo. perché è di dove viene lei, e poi ha anche un significato, è una metafora all'interno del film, che sì. quando lo vedrete potrete scoprirlo. Ecco, proprio a questo proposito, Maite, che percorso farà il tuo documentario? Se c'è in internet delle informazioni, hai un tuo sito dove si possono trovare informazioni in proposito? Sì, allora se volete, prima di tutto, se volete vedere un piccolo promo, un piccolo assaggino di 3 minuti, su Vimeo c'è il trailer, quindi potete scrivere Il lugar de las fresas, trailer, e ci sono 3 minuti di trailer del film. Poi abbiamo, c'è il film ha la sua pagina, www.illuardelasfresas.com, e la pagina anche di Facebook, Il lugar de las fresas film, dove vengono aggiornate tutte le scritte, tutte le proiezioni, tutte le informazioni, tutte le recensioni che si fanno, che si stanno facendo, si faranno del film. E poi il film ha vinto 2 premi al Torino Film Festival, il premio alla distribuzione in 20 circuiti arts d'Italia, che ancora non è definito il programma delle proiezioni, e poi una menzione speciale al premio Gli occhiali di Ganni, che è un premio che ci dà il film che meglio racconta il tema della pace. Sì. E poi adesso mi sono arrivate un sacco di mail dopo la proiezione del Cinema Massimo, perché c'è stata tantissima gente che ancora dopo quella proiezione lo ha saputo dopo, vuole vederlo, quindi adesso sto organizzando, pensando a nuove proiezioni in Piemonte. Bene. E ovviamente mi piacerebbe tantissimo portarlo per tutta l'Italia questo film, perché è un film che racconta il Piemonte, racconta l'Italia, racconta la Spagna, il Mediterraneo, quindi un film che è un argomento che io credo può interessare a un certo. gran numero di persone. Maite, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Sì, grazie mille, grazie della telefonata. Ciao Maite, ciao. Auguri per il programma. Ciao. Anche a te, ciao. Maite Daneris, regista del documentario Il lugar de las fresas, i riferimenti ce li ha dati. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Ecco Giuseppe Marco Albano, regista del film Una domenica notte, in uscita in sala oggi giovedì 20 febbraio con distribuzione indipendente. Giuseppe, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao a tutti. Raccontaci un po' di questa storia, cos'è Una domenica notte? Ah, Una domenica notte è un film indipendente girato interamente in Basilicata, che poi è la mia terra, quindi tra la provincia di Matera e la provincia di Potenza. È un film, insomma, che parla di un uomo di mezza età che sogna di fare cinema, un po' come me, un po' come tutti i giovani, però lui, insomma, è un po' più grandicello, appunto, c'ha 46 anni, il protagonista è Antonio Colucci, ed è interpretato da Antonio Andrisani, che poi è quello che ha scritto la storia, che appunto la prima fase della sceneggiatura, poi l'abbiamo un po' rivista, revisionata insieme, ed è venuto fuori Una domenica notte, tratta appunto dalla canzone, dalla colonna sonora di Bruno Risas, che è questo cantautore calabrese molto molto bravo, per me uno dei più grandi cantatori che abbiamo attuali, insomma, nel momento in Italia. La Domenica Notte è un film che parla di cinema, è un film sul cinema, e le speranze sono di un uomo che vorrebbe realizzare un film. La particolarità è che vuole fare film di genere, quindi è appassionato di cinema horror e sogna di realizzare appunto una pellicola horror girata tutta all'interno di un cimitero, con un solo protagonista che è accompagnato da un cane, un pastore tedesco, e niente, quindi è stata, come dire, la metafora per noi per raccontare il mondo di oggi, la società attuale italiana e soprattutto la provincia, che noi raccontiamo la provincia lucana, quindi quella della Basilicata, però penso che in Italia tutte le province siano uguali. Quindi è un film però che fa divertire, quindi raccontiamo attraverso la commedia, anche se usiamo appunto il genere horror come metafora per raccontare forse quelli che siamo. Infatti poi il protagonista si accorge nella storia, perché lui gira attraverso questa regione per la ricerca di fondi che realizzerebbero il suo sogno, quindi cerca questi 100.000 euro che permetterebbero di realizzare il film, di girare il suo film. E si accorge in questa ricerca, insomma, che il paese dove è cresciuto, la regione, insomma, dove vive, che lo accoglie, insomma, da sempre, è più horror del film. Quindi questa è un po' la metafora forte che abbiamo voluto usare per raccontare una storia di un uomo, insomma, del sud, che ha una grande aspirazione, che è quella di fare cinema. Infatti lui non è andato a Roma, ma è rimasto in Basilicata, e lo dice anche più volte nel film, dice: non me ne sono andato a Roma come fanno tutti, io sono rimasto in Basilicata a soffrire, perché amo la mia terra, rispetto alla mia terra, quindi questa è una Domenica Notte. Oh, un quasi cinquantenne, alle spalle c'è un film horror che non è uscito in Italia ma in Germania in home video, e adesso, insomma, si barcamena tra spot pubblicitari di piccole aziende locali e video scolastici in una scuola, corsi di cinema nelle scuole, con le scuole elementari, e poi fa piccoli spot per supermercati, aziende di piccoli. Un po' quello che, come dire, anche noi filmmaker, anche io, ecco, non mi vergogno di dirlo, faccio per tirare a campare, quindi corsi di cinema nelle scuole, oppure piccoli spot istituzionali o aziendali, è un po' la storia appunto del protagonista di Antonio Colucci. Senti, hai detto, e poi ho avuto anche modo di vederlo, insomma, lui decide di restare in Basilicata, e rispetto alla storia, ecco, dicevi della sceneggiatura originale, che modifiche avete apportato, e poi quanti echi ci sono di storia personale vostra? Beh, allora, inizialmente la sceneggiatura, il titolo della sceneggiatura era Un film di genere, questo era il titolo, che appunto Antonio mi fece leggere, io mi innamorai di questa storia e poi decidemmo insieme di, insomma, andare alla ricerca, e in quel caso troviamo questi giovani produttori lucani che sono Angelo Vigione e Paolo Leone di Camarda Film, che insomma anche loro si innamorarono della storia, e insieme, insomma, come dire, abbiamo intrapreso questo viaggio alla ricerca anche noi di fondi. Più o meno come il protagonista Antonio Colucci siamo andati, anche io, anche lo stesso protagonista Antonio, siamo andati alla ricerca di finanziamenti per realizzare il nostro piccolo film indipendente. Sì. Modifiche, insomma, grosse dalla sceneggiatura iniziale, cioè più o meno la storia era quella, abbiamo aggiunto delle cose, abbiamo aggiunto dei personaggi, abbiamo tolto delle scene comiche che non piacevano a me, e poi ne abbiamo aggiunte altre, però più o meno la storia originale, abbiamo ritoccato qualcosa, quindi poi la riscrittura è stata fatta a quattro mani da mio Antonio, ha aggiunto appunto il concerto di Bruno Risassi, che appare anche all'interno del film, poi per questo abbiamo dato il titolo del film Una Domenica Notte, che è cambiato, e quindi non sono stati grossi cambiamenti, però l'abbiamo rivista e rivisitata insieme alla sceneggiatura. Giuseppe, l'incontro con distribuzione indipendente? L'incontro con distribuzione indipendente è avvenuto per caso, perché facemmo una proiezione quest'estate, se non sbaglio, a luglio all'Isola Tiberina a Roma, e loro erano lì, infatti era lì Giovanni Costantino, a cui il film piacque moltissimo, e poi nacque da lì tutto, perché lui voleva distribuire l'opera, e voleva distribuire appunto La Domenica Notte, e quindi da lì è iniziato il percorso che abbiamo fatto insieme. Siamo arrivati ad oggi, 20 febbraio, finalmente il film esce in 50 sale, quindi siamo soddisfatti, essendo piccoli e indipendenti. È un'opera prima, quindi non abbiamo avuto né finanziamenti ministeriali né finanziamenti di Film Commission, abbiamo veramente fatto tutto da noi, e per questo insomma ringrazio la mia produzione, i miei produttori e ovviamente tutti gli attori, tutti quelli che sempre ci hanno sostenuto, insomma, con cui abbiamo fatto questo viaggio, questo percorso insieme. Anche perché 50 sale non sono niente male, sono dislocate un po' in tutto il paese, in tutta Italia? Sì, sono dislocate un po' in tutto il paese, ricopriamo un po' le città, insomma, le città, i capoluoghi, le ricopriamo un po' tutte attraverso il circuito UC Cinema, e quindi abbiamo tantissime città in Italia, e poi anche nel circuito off, quindi piccole sale, ora segne, ci siamo anche all'interno, quindi in tutto una cinquantina di sale da questa settimana, e poi insomma speriamo di crescere, di portarlo sempre in più cinema, ecco. Come riferimento c'è il sito internet di distribuzione indipendente, e poi cos'altro? Come riferimento c'è il sito di Una Domenica Notte, quindi unadomenicanotte.it, e poi insomma le notizie si possono trovare ovunque, la pagina Facebook, quindi Una Domenica Notte, io sono Giuseppe Marcalbano, e quindi niente, e poi le notizie su Google, cioè, sull'internet tranquillamente. Giuseppe, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci alla prossima. Crepi, grazie mille, e ciao a tutti, grazie mille. Ciao Giuseppe. Giuseppe Marco Albano, regista del film Una Domenica Notte, in uscita in sala oggi giovedì 20 febbraio con distribuzione indipendente. Giovanni Mazzitelli, regista del documentario Solving, in uscita in sala oggi giovedì 20 febbraio. Ciao Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio, come state? Tutto bene. Solving, mi interessava molto, ho letto qualcosa della trama, della storia che racconti, allora raccontala anche a chi ci ascolta. Ah sì, in pratica è un po' quello che stiamo vivendo tutti noi, no? La storia del nostro paese, la crisi, quello che stiamo attraversando, i problemi economici, le tasse, le imposte. Io nel corso, diciamo, del mio cammino mi sono trovato a voler parlare di quello che è un problema ancora più importante, quello che attanaglia maggiormente quella che è la spina dorsale del nostro paese, la piccola e media imprenditoria. E ho visto che nel corso di questi anni c'è stato un fenomeno bruttissimo e altrettanto stranissimo, che era quello del suicidio di questi imprenditori. Per questa ragione nel 2012, con il caso più eclatante, verso il 28 marzo, quando c'è stato il suicidio di Giuseppe Campaniero davanti alla Commissione Tributaria di Bologna, ho deciso che la mia ricerca, il mio percorso sulla storia di imprenditori all'interno del nostro paese nella crisi economica avrebbe dovuto raccontare anche questo, una pagina triste che però purtroppo deve essere raccontata, perché noi non possiamo ancora subire solamente quello che ci sta accadendo, ma dobbiamo cercare anche di offrire una forma di ragionamento e soluzione, appunto da questo è il titolo del film. Dove ti ha portato questa ricerca? Mi ha portato a conclusione che i veri imprenditori e coloro i quali riescono poi a sopravvivere, a tirare avanti, hanno all'interno del loro vademecum quotidiano questo concetto di problem solving, appunto della soluzione del problema nel minor tempo possibile. Io credo che, essendo molto giovane, non possa dare delle vere e proprie idee, diciamo, di soluzione proprio per questa crisi che è troppo più grande di tutti noi, però non posso neanche pensare che la nostra generazione, la mia generazione, quella dei ragazzi che dovrebbero fare il nostro paese, si affievolisca e che pensi che non ci siano in nessun modo delle vie d'uscita. È proprio per questo che ho cercato un massimo sistema, una chiave di lettura e soprattutto un simbolo che mi desse speranza. Materialmente dove sei andato e insomma come è strutturato il documentario? Hai interviste o hai seguito il quotidiano di alcune persone? Il documentario è strutturato come se fosse un vero e proprio film di cinema verité, quindi prendiamo per esempio il linguaggio dei film dei fratelli Dardenne o dei film del nostrano Garrone, per esempio Gli ultimi reality e Gomorra. Mi ha portato un po' ovunque, in tutta Italia, da Roma a Milano, a Torino, a Montebelluna, a Chieti, per poi arrivare logicamente nel centro del mio racconto, che è Napoli e il sud, dove noi praticamente utilizziamo la maggior parte delle riprese, perché è lì che si svolge la storia appunto di questo imprenditore campano che si trova appunto oberato dai debiti all'interno della crisi del 2010 per quanto riguarda il suo settore di competenza, che è il settore del settore energetico, e decide di investire e diversificare in un settore completamente differente, quello della comunicazione audiovisiva, all'inizio con grandi risultati, poi dopo le prime frizioni cerca di tornare e diversificare di nuovo nel suo settore. Ma nel frattempo arriva il 2012 e arrivano i peggiori momenti di scoramento della crisi per il nostro paese. Senti, quante persone del settore hai incontrato nel corso del lavoro? Potrei dirtene veramente più che la quantità e la qualità, perché ho differenziato molto tra imprenditori del nord-est, del nord-ovest, del centro, del sud, imprenditori algerini, francesi, inglesi, tedeschi, anche africani in alcuni casi, perché il mercato del Mediterraneo è sempre molto molto forte, e loro mi hanno offerto sempre solo lo stesso punto di vista: non c'è una ragione per poter arrendersi, non c'è nessun modo, nessuna ragione per poter arrendersi. Un imprenditore non può arrendersi, l'imprenditore è colui che pensa che il giorno dopo possa essere migliore, quindi non accetta la sconfitta, può solo andare avanti. Quindi per questo io dico non tanto la quantità, ma la qualità e la diversificazione di imprenditori che ho incontrato. Senti Giovanni, come sei riuscito ad arrivare alla distribuzione? La distribuzione è stata una sorta di scommessa. Io ho parlato con il protagonista e produttore della vicenda, Salvatore Emiliano, e gli ho detto: se io riesco a portarti il progetto che intendo realizzare e riesco ad avere tutto quello che ti ho promesso, cioè parliamo delle figure come Alberoni, Di Mare, gli economisti, una vittima collaterale come la testimonianza di Tiziana Marrone, e riesco a offrirti quel punto di vista che tu vuoi raccontare, perché lui voleva raccontare anche dei suicidi imprenditoriali, allora tu mi assicurerai la distribuzione. Alla fine ho vinto la scommessa e quindi oggi siamo in 17 sale in tutta Italia. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti se i protagonisti del tuo film si sono poi rivisti e riconosciuti nel racconto. Sempre, perché ho cercato di avere un tono molto guaieristico all'interno delle mie riprese. Non cercavo di assumere una posizione, cercavo di offrire un'istantanea su quello che stavamo vivendo, e poi offrivo dei simboli: il simbolo dell'analisi dal punto di vista socio-economico, il simbolo delle vittime collaterali della crisi, il simbolo del punto di vista appunto di cronaca della vicenda. E quindi poi sì, si sono rivisti tutti. Io ancora oggi ho in rapporti ottimali sia con Tiziana, che è stata gentilissima ed è un simbolo della forza proprio di poter andare avanti quotidianamente dopo quello che ha passato e passato tuttora, e ho ancora ottimi rapporti con i miei intervistati illustri che mi hanno offerto una panoramica davvero inaspettata su questa vicenda. Giovanni, per saperne di più in rete dove si può cercare su Solving? Praticamente siamo ovunque, quindi abbiamo la fortuna di essere, basta digitare il nome della pellicola e si hanno tutte le informazioni. Siamo tutti i principali canali di intrattenimento cinematografico, sui periodici e i quotidiani più importanti, al Corriere della Sera, a Repubblica, al Secolo XIX, al Giornale, adesso mi sfugge qualcosa, però insomma ci sono tantissime testate che stanno parlando ancora oggi di un avvenimento che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è ancora troppo attuale, e temo che lo sarà ancora fino alla fine della crisi, che noi non possiamo conoscere. Quindi basta scrivere Solving sul web ed escono tutte le informazioni su quello che è il nostro progetto. Si tratta della tua opera prima o cosa hai realizzato in precedenza, Giovanni? Come sceneggiatore sono alla seconda opera, perché l'anno scorso ho realizzato un lungometraggio come sceneggiatore dal titolo Vitrion, e quest'anno invece questa è il mio primo lungometraggio sotto forma appunto di documentario, e punto a realizzarne un altro che sia totalmente di realizzazione di fiction, serie, rispettando però sempre un linguaggio di cinema verité al quale adesso mi sento molto legato. Bene Giovanni, allora magari ci si sente per la prossima avventura, un abbraccio e in bocca al lupo. Da oggi pomeriggio in tutte le sale Solving, e quindi è un film che andrà avanti col passaparola, quindi dateci una mano se amate il vostro paese. Vi ringrazio ancora. Ciao Giovanni, ciao. Ciao. Giovanni Mazzitelli, regista del documentario Solving, in uscita in sala oggi giovedì 20 febbraio. In collegamento con Fabrizio Riggio, regista del documentario Ora di chiusura, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Oh, abbiamo appena adesso parlato di un documentario che esce oggi in sala, Solving, sui suicidi degli imprenditori. Adesso invece partiamo dal punto di vista invece degli operai, giusto Fabrizio? Sì, esatto, perché Ora di chiusura è un documentario, insomma, girato durante i giorni in cui veniva fermata la produzione a Termini Imerese, lo stabilimento Fiat di Termini Imerese. Allora partiamo insomma dall'idea di realizzare questo lavoro e poi insomma come l'hai affrontato. Sì, dunque io ero già in contatto con alcuni dei lavoratori di Termini Imerese, anche perché era stato, diciamo, preannunciata la chiusura dello stabilimento alcuni mesi prima, per cui insomma avevo seguito questa vicenda. Poi dopo Fiat ha deciso di anticipare la chiusura, che era prevista per la fine di dicembre del 2011, al mese di novembre, quindi ci ha un po' colti, ecco, di sorpresa, per cui ci siamo catapultati a Termini Imerese, io con Marta Roversi, che è comunque coautrice del soggetto, e Giuseppe Torrisi, che invece era l'operatore del documentario. La vicenda segue le vicende, diciamo, quotidiane di alcuni degli operai di Termini Imerese. In particolare sono due gli operai che abbiamo deciso di seguire, che erano coloro che avevano delle condizioni rispetto agli altri ancora più precarie, nel senso che, avendo dei contratti a tempo determinato, queste persone non usufruivano di cassa integrazione, per cui insomma abbiamo deciso di focalizzarci su di loro, di seguire la vicenda attraverso il loro punto di vista. Mm-hmm. Il film è stato autoprodotto da noi, poi dopo abbiamo ci siamo rivolti alla rete, al crowdfunding, per cui Produzioni dal Basso ci ha insomma messo a disposizione la sua piattaforma e ci ha aiutati a realizzare, a portare a termine poi dopo alla fine il lavoro. Mm-hmm. Oh, tra l'altro il documentario è stato online per un mese circa all'interno del Via Emilia Doc Fest, se non sbaglio. E che risultati hai avuto, Fabrizio? Beh, insomma, è stato visto abbastanza, credo, da un buon pubblico, insomma. Da utenti della rete, quella sicuramente è stata una grossa soddisfazione. Dopodiché, insomma, ci hanno contattati da Radio 3, per cui abbiamo realizzato una versione audio per il programma Tre Soldi su Radio 3. Credo che sia ancora disponibile il podcast delle puntate, insomma, che Radio 3 ha trasmesso poco tempo fa. La chiusura di Termini Imerese, quanti operai ha coinvolto, Fabrizio? E poi che storie raccontano i protagonisti del tuo lavoro? Sì, la chiusura ha coinvolto circa 2000 operai, 1200 erano gli operai, insomma, dello stabilimento, gli altri erano gli operai invece che facevano, diciamo, lavoravano all'indotto dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. Le storie sono diverse, le storie, perché ovviamente noi, arrivando a Termini Imerese, abbiamo raccolto le testimonianze di queste persone, però man mano durante insomma le due settimane che siamo rimasti a Termini, abbiamo visto anche come questa vicenda ha creato una spaccatura all'interno del fronte operaio. In particolare tra gli operai, diciamo, più anziani, che avevano comunque delle garanzie, mi riferisco insomma agli ammortizzatori sociali, alle finestre per il prepensionamento, e gli operai invece più giovani, che non avevano, alcuni di loro, come insomma le persone che abbiamo seguito, non avevano alcuna forma di nessuna garanzia, per cui si è creato una spaccatura all'interno del fronte operaio. Insomma, questa è stata una cosa interessante che abbiamo visto raccontando questa vicenda. Mano a mano ovviamente le questioni personali e il loro, come dire, il loro racconto, che le loro tensioni familiari venivano a galla. Ci hanno raccontato anche di come la chiusura dello stabilimento e ovviamente dell'indotto ha comportato una progressiva impoverimento dell'area di Termini Imerese, anche perché quello era uno stabilimento, diciamo, che dava lavoro, insomma, a 2000 operai non solo di Termini ma anche di tutta l'area circostante, i paesi vicini, limitrofi, insomma. E alcuni di loro sono riusciti comunque a trovare un'altra attività. Che condizione vivono adesso? No, quasi nessuno di loro ha trovato attività. C'è chi ha iniziato, diciamo, a lavoricchiare in nero per qualcuno, per qualche officina meccanica, ma pochissimi di loro davvero hanno poi dopo avuto la possibilità di ritrovare di rimettersi, insomma, al lavoro. Diciamo che la situazione, ecco, resta abbastanza critica, anche perché anche per coloro che erano in cassa integrazione negli ultimi tempi, mi pare che per molti di loro si sia fermata la cassa integrazione, per altri il termine ultimo credo che sia il giugno 2014. E, insomma, nessun progetto fino ad ora è stato presentato per reindustrializzare il sito, per cui, insomma, vivono delle condizioni davvero davvero tristi. Ecco, invece la realtà lavorativa della zona qual è, per quello che hai potuto vedere? È molto difficile parlare di una realtà lavorativa in quella zona. Insomma, io ho visto dopo tornando a Termini Imerese che diciamo, queste persone hanno non solo perso il lavoro ma hanno anche perso la fiducia nel trovarne un altro, quindi momentaneamente quello che si registra è una forte emigrazione verso l'estero. Chi ha parenti magari nel nord Italia decide di provare a trovare qualcosa di là, ma insomma è anche per loro è molto difficile. Che sarà adesso di questo vostro documentario? Intanto, se ci sono, se hai dei riferimenti internet per avere maggiori informazioni. Sì, dunque il documentario è stato accompagnato da un blog che si chiama Viaggio al termine della Fiat.blogspot.it. Poi dopo troverete anche la pagina su Vimeo. E dopo c'è drastico.com, che insomma è in fase di aggiornamento ma è il mio sito. Dopodiché, insomma, per ora sta girando per rassegne e festival dedicati al documentario. Per quello che hai potuto vedere, la curiosità, Fabrizio, mi viene da chiederti che come vedi le mosse aziendali della Fiat dopo aver visto questa esperienza, le attuali manovre soprattutto finanziarie e di spostamenti in giro per il mondo? Ma quello è stato un momento cardine, diciamo, per la Fiat. Credo che la dismissione di Termini Imerese possa aver segnato davvero la scelta, era un segnale, insomma, chiaro di una scelta della Fiat di abbandonare o comunque trovare soluzioni diverse all'estero. Per quanto mi riguarda, insomma, è stato anche abbastanza doloroso vedere come le aspettative di quelle persone, tra l'altro una zona, insomma, turisticamente molto molto bella, negli anni 50 è stata, diciamo, dedicata all'espansione industriale in quel momento, cosa che invece adesso, insomma, risulta difficile riuscire a rimettere in moto il turismo in un'area, in una zona in cui fondamentalmente è stato industrializzato tutto, sì. Per cui, insomma, resta molta tristezza. Bene, allora, Fabrizio, i riferimenti ce li hai dati, un abbraccio, spero a risentirci presto. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e buon lavoro. Ciao, grazie anche a te. Fabrizio Riggio, regista del documentario Ora di Chiusura. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni riguardo alla scaletta potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 febbraio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi il link per ascoltare la puntata precedente ma anche quelle del 2014 e del 2013. C'è anche la pagina Facebook, mentre l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda un documentario scelto da Distribuzioni dal Basso sul tema migrazioni, anzi migranti, dello scorso mese, dovevamo sentire il collettivo Teleimmagini per il documentario La fabbrica dei clandestini, ma non ci siamo riusciti. Per invece il film La mia classe, che è stato al cinema di recente e sarà in una tre giorni romana la prossima settimana, lunedì al Nuovo Cinema Palazzo, al Teatro Valle Occupato il 25 e 26, cioè martedì e mercoledì, dovevamo sentire Gianluca Arcopinto, che ne è produttore e sarà presente al Teatro Valle, e abbiamo provato anche Valerio Mastandrea, che invece sarà al Cinema Palazzo, non essendo riusciti nell'intento abbiamo provato a sentire Daniele Gaglianone, che è regista, e ci siamo riusciti. Daniele, ci sei? Ciao, sono l'ultima scelta quindi. No, lo sai che è che per l'uscita in sala avevo sentito te, per questo appuntamento romano dopo l'uscita in sala ho detto vabbè, sentiamo Gianluca che lo ha prodotto, come anche gli altri tuoi lavori. Allora Daniele, intanto ti chiedo com'è andata l'uscita in sala, che bilancio ne fai? Guarda, faccio un bilancio molto positivo e continuo a farlo, perché comunque il film, essendo distribuito in modo indipendente, è distribuito anche in modo anomalo, perché le distribuzioni indipendenti non possono godere degli spazi e dei ritmi che le distribuzioni di sistema invece di cui godono le distribuzioni di sistema, diciamo così. Quindi noi non ha senso uscire, cercare di uscire contemporaneamente ovunque. Noi continuiamo a uscire dove riusciamo, e io ho delle uscite anche a marzo, fine marzo, e quindi sì, sta continuando ad andare bene. C'è un po' di rammarico in tutti noi, proprio perché di fronte a un dato di una risposta di pubblico dignitosa, più che dignitosa, ci viene da dire: ma se in una situazione di mercato vero, perché questo non è un mercato, avessimo potuto giocarci a partita ad armi pari, probabilmente che numeri avrebbe fatto questo film? Certo. Ora, con tutto quello che con tutto quello che posso dire di bene del Nuovo Aquila, ovviamente, anzi, che meno male che c'è il Nuovo Aquila, che così il film è uscito lì, ma mi sembra normale che un film, non dico di Daniele Gaglianone, ma un film come Valerio Mastandrea in una città come Roma esca solo in una sala? Sì. Mi sembra normale, normale che nella mia città, Torino, dove comunque quando i miei film escono la gente arriva a vedere il film con le sale sempre piene, resti due settimane? No, non è normale. Certo. Su questo potremmo, come dire, credo che Gianluca avrà molte cose da dire quando incontrerà il pubblico al Cinema Palazzo o al Teatro Valle. Sì. Però io sono molto contento del film, sono molto contento di come sono molto contento di aver visto con i miei occhi la gente che fa la coda sotto la pioggia. Non solo perché c'è il regista o l'attore, ma la continua a fare anche nei giorni successivi. Sono contento che ne so che a Bologna non siamo riusciti a trovare una sala, una città come Bologna è stata al circuito degli esercenti cattolici e ci hanno detto lo teniamo tre giorni, l'hanno tenuto due settimane. Sono felicissimo che a Napoli, non riesce a trovare una sala, siamo stati e forse continueremo a esserlo in un centro sociale in mezzo alla città, e perché credo che il segreto di fronte a una situazione, come dire, oggettivamente discutibile e deprimente sia quello di andare avanti, di non arrendersi di avere il coltello, di tenersi il coltello fra i denti e di combattere. Mm. E lo stiamo facendo e sono contento. Senti Daniele, anche stavolta chiaramente per chi ci ascolta ti chiedo di raccontare in breve la vicenda che hai affrontato nel film. Ma guarda, il film è una storia, doveva essere una storia molto semplice da raccontare. L'incontro fra come fece De Seta, il grande De Seta, con Diario di un Maestro, sì. Mettendo insieme il maestro, interpretato da un attore, e una classe di bambini che andavano veramente a scuola in una periferia romana, lui abbiamo fatto la stessa cosa con un professore italiano e una classe di studenti stranieri. Mm-hmm. Però cosa è successo? È successo che quando ti confronti con la realtà, perché la vuoi raccontare, spesso la realtà rischia di esploderti fra le mani, no? Allora ti immagini che possano accadere delle cose, no? Nella tua mente di sceneggiatore, nella tua drammaturgia, e poi quando queste cose tu le hai pensate solo nel mondo rassicurante del tuo film, no? Che è un universo, come dire, che in cui non accade nulla di nessun scossone, perché lo puoi dominare come autore. Poi invece nella realtà, che è, come dire, alla base del tuo lavoro, e poi la realtà ti prende le berle, succedono delle cose che ti sono immaginato, poi quando succedono veramente non puoi usare gli strumenti del regista, devi usare gli strumenti del cittadino. Mm-hmm. E allora abbiamo reinventato il film perché la realtà ci ha chiamato a prendersi delle responsabilità. Quindi insomma, di fronte a dei problemi rispetto ai documenti che avevano avuto alcuni ragazzi del film, alcuni studenti del film, che avrebbero di regola ci avrebbero costretto ad andare a dire a loro, dopo sei mesi che parlavamo di questo film, che loro non potevano più lavorare con noi, non potevano più fare film perché non erano più regolarizzati. Allora ci siamo inventati un'altra via. L'altra via, cercando appunto di metterci una pezza, come dite voi, di rendere tutti più regolari possibili, però di non buttare via quel disagio che avevamo provato, sì, sì. Quella contraddizione, no? Tra ciò che pensi e ciò che il sistema ti chiede di fare e di andare contro spesso le cose che pensi, no? E allora abbiamo detto ok, mettiamolo nel film, non cerchiamo di evitare la contraddizione, immergiamoci nella contraddizione al 100% e vediamo che succede. E quindi insomma il film è anche difficile da definire, no? Perché è una commissione, una contaminazione continua fra una cosa che sembra di finzione, una cosa che sembra un documentario, però in realtà io penso che il film sia proprio grazie a questa impossibilità di dargli una definizione. Sì, sì. E penso anche che sia in qualche modo un piccolo miracolo, perché è un film molto semplice da vedere, molto diretto, molto immediato, però non rinuncia a essere complesso e a raccontare la complessità. Sì, sì, sì, sì. Daniele, allora ricordiamo i tre appuntamenti, poi dimmi anche rispetto alle partecipazioni. Lunedì 24 al Nuovo Cinema Palazzo ci sarà Valerio Mastandrea, da quello che ho capito. Il 24 e il 25 e il 26, cioè martedì e mercoledì, al Teatro Valle Occupato ci sarà invece Gianluca Arcopinto, che ne è il produttore, giusto? Dovrebbe essere così. E tu invece non ci sarai, credo che sia. Molto, ma purtroppo, appunto, siccome il film sta continuando a vivere, per fortuna io sono. Lo accompagni? I giorni là lo accompagno in una piccola tournée in Romagna. E quindi, insomma, tra l'altro, è un film che è richiestissimo dalle scuole, cosa che mi fa molto piacere. Fa molto piacere incontrare anche i ragazzi. Quindi, insomma, la sera c'è il film per il pubblico normale. E la mattina dopo per le scuole, ecco. Mm-hmm. Ah, scusa, sì, dimmi. 10 secondi, a proposito di che ho usato questa espressione anche un po', come dire, il pubblico normale, no? Come se ci fosse un pubblico anormale. E vorrei dire una cosa, che per molti distributori sedicenti illuminati, questo film era indistribuibile, questo film non poteva avere un pubblico perché era troppo complicato. Allora io vorrei invitare una riflessione, visto che siamo anche in questa radio, che è una radio, come dire, connotata, per fortuna. spesso questi personaggi che pensano se la danno come esperti e pensano di dirti che cos'è il pubblico, cosa vuole il pubblico, dietro questo atteggiamento di esperti c'è un disprezzo per la gente che fa paura. Mm-hmm. C'è un disprezzo per la gente che fa paura, perché il pubblico, che secondo loro il pubblico che appunto ho visto, che vedo riempire le sale, che vedo fare la coda sotto la pioggia, che vuole vedere questo film, per loro questa gente qua non esiste. Sì. E l'altro giorno mi sono trovato di fronte a una platea piena in un paese sperduto del Piemonte, ho detto: guarda, sapete che voi non esistete, io sto parlando in realtà non sto parlando con nessuno. Quindi l'ho spiegato perché gli dice. Sì. Daniele, giusta questa considerazione, come sempre è stato un piacere, io ti abbraccio, spero di risentirti presto nel corso di questa stagione. Va bene, grazie. Ciao Daniele. Ciao. Daniele Gaglianone, regista del film La mia classe, lunedì 24 al Nuovo Cinema Palazzo, con la presenza del protagonista Valerio Mastandrea, martedì 25 e mercoledì 26 al Teatro Valle Occupato, con la presenza del produttore Gianluca Arcopinto. È tutto per Visionari, si torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.